Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Voi siete qui, di Matteo Caccia. Un giorno, dopo la mia solita richiesta del sabato sera, per l'ennesima volta mi risvegliai constatando che mio padre se n'era andato senza chiamarmi. Quel giorno, a pranzo, urlai tutta la rabbia e la delusione che provavo in faccia a due genitori esterrefatti. Sono Luciano Barbato, abito a Follonica, lavoro presso un'amministrazione centrale dello Stato e ho 48 anni. Il fatto è che oggi tutti noi raccontiamo storie. Siamo immersi in un mondo a piena comunicazione. Gli studi sul nostro cervello stanno cominciando a fornirci una nuova prospettiva sull'importanza del racconto e su come costruirlo. Quando ascoltiamo una noiosa presentazione in PowerPoint, si attivano alcune aree del nostro cervello. Quando invece ci raccontano una storia, il nostro cervello si attiva completamente. Nel frattempo il digitale ha cambiato molto l'idea che abbiamo di storia, che non è più solo un romanzo o una narrazione giornalistica. Tutti noi raccontiamo storie, sul lavoro, sul web, nella comunicazione scientifica e in quella di mercato. Ed è sopravvenuto un altro fattore importante. Gli studi sul nostro cervello, che è sempre stato un oggetto misterioso e in buona parte ancora lo è, hanno cominciato a fornirci una nuova prospettiva sull'importanza del racconto e su come costruirlo. Non a caso una delle parole più trendy del momento è proprio storytelling. Ma la parte interessante della ricerca si sta conducendo su un'altra strada, è quella che racconta come e perché le storie vengono fatte girare agli altri, perché vengono condivise. Gli esperti ci spiegano bene quali sono le motivazioni per cui condividiamo foto, articoli, narrazioni e qualsiasi altra cosa sui social network. In genere lo facciamo, spiegano, per dare a chi ci segue contenuti di valore o di intrattenimento, ma anche perché quello che condividiamo è un modo per definire noi stessi e per nutrire le nostre relazioni. Questo è un articolo che avevo letto quest'estate sulla stampa e che mi ero messo da parte a firma di Giuseppe Granieri, che è uno dei modi per spiegare sostanzialmente perché ha senso questo programma, perché siamo qui. Non che dobbiamo spiegarlo a nessuno, tantomeno a voi che continuate a inviarci storie, vi chiedo di continuare a farlo, di non fermarvi. Voi siete qui, @radio24.it. Semplicemente però ogni tanto è bene fare un punto, no? E cercare di capire, vabbè, ogni giorno c'è una storia diversa, ogni giorno c'è una persona che racconta un episodio della sua vita, per quale motivo può essere o meno interessante? Per questo, perché le storie ci appartengono, perché le storie ci fanno crescere, perché le storie in qualche modo sono anche la nostra, anche se davvero sono la storia di qualcun altro. Buongiorno a tutti, sono le 16:10 di un bel venerdì 20 di settembre 2013. Oggi, come facciamo tutti i giorni, appunto, continuiamo a raccontare storia. La storia di oggi è la storia di Luciano ed è una storia delicata. Ed è talmente delicata, cioè delicata, è delicata per Luciano. Ed è talmente delicata per lui che non sarà al telefono Luciano. L'avete sentita la sua voce, farà anche quelli che definiamo insert, cioè quei pezzi di voce dell'autore della storia all'interno del racconto in diretta, però non sarà al telefono con noi perché proprio mi ha semplicemente chiesto di non farlo, perché questa cosa, questa storia ancora a distanza di anni lo tocca talmente da vicino che diceva non so se riesco a parlare in diretta. E allora niente, noi andiamo avanti ringraziandolo comunque per la storia e tirandone su altre che riguardano questo argomento, perché Luciano parla di una cosa molto particolare che a lui accade in gioventù, in giovanissima età, aveva 10 anni, e che è ancora più particolare perché gli accade con i genitori. Però spesso ci capita, capita a noi, cioè capita di subirlo e di agire, di essere attori in questa cosa, di dire qualcosa, di usare proprio delle parole che hanno delle forti conseguenze sulla vita delle persone. Cioè, magari non lo sappiamo subito, magari ce lo vengono a dire dopo, magari non ce ne accorgiamo nemmeno noi quando ci dicono qualcosa o usano delle parole che ci toccano al punto da cambiare le cose. Però può essere capitato, ed è capitato a tutti, di dire qualcosa che ha generato delle conseguenze inaspettate. 349-238-6666 è il numero per mandare sms, non per telefonare, ve lo ricordo, perché ogni tanto appare sullo schermo, ti ho cercato al numero, solo sms, 349-238-6666, oppure il profilo Facebook è Voi Siete Qui R24. Visto che mi scrivono dei podcast, i podcast si possono scaricare sia sul sito della radio, sul sito di Radio 24, alla sezione podcast, sia abbonandosi gratuitamente ad iTunes e quindi scaricandosi di volta in volta tutti quanti i podcast. Io tra l'altro ci siamo stupiti del fatto che quando era 2 giorni fa, tra l'altro non si capiva bene nemmeno per quale puntata o perché, lo scaricamento dei podcast ha avuto un'impennata incredibile e ogni tanto evidentemente succede, qualcuno si ricorda che c'è il podcast, ah c'è il podcast, aspetta che vado a scaricarlo, e forse questa roba succede in massa e tutti se li scaricano. Fate che ve lo segnate da qualche parte, segnatevelo con un memo sul computer, podcast Voi Siete Qui, e ve lo scaricate tutti i giorni dal sito o da iTunes. 349-238-6666, torniamo a parlare della storia di Luciano, torniamo a parlare di quelle parole che hanno generato delle conseguenze che anche per voi erano inaspettate. Nasco a Torino nell'ormai lontano 1965, da genitori toscani in fuga dalla miseria della campagna del dopoguerra. In tasca solamente il biglietto del treno e in testa il sogno della città, in cerca di una qualità di vita migliore e la speranza di un posto di lavoro in una delle tante fabbriche del nord. E così è stato. Da quando ho consapevolezza, i giorni della settimana erano scanditi dalla scuola a tempo pieno, per me, e dai turni di lavoro in fabbrica, per i miei. Dunque, i miei genitori erano partiti da Follonica ed erano andati a Torino per andare a lavorare in un'industria, nella fattispecie a L'Oreal di Settimo Torinese. Ci si ritrovava la sera per la cena, ognuno per conto proprio. Il tempo di mangiare un boccone e immediatamente a letto per affrontare il giorno dopo. Unica distrazione per mio padre, la domenica mattina, la caccia alla penna. Era un cacciatore particolare lui. Fucile a colpo singolo, perché diceva devi dare una possibilità all'animale, se sbagli la prima, ciao. E soprattutto senza cane, perché non c'era possibilità di tenerlo. Andava via di primo mattino alla domenica e faceva ritorno all'ora di pranzo. Non tornava mai a mani vuote. A volte, se non trovava selvaggina, arrivava con castagne o funghi o frutti di bosco, a seconda della stagione. Io lo guardavo e fantasticavo delle sue uscite. Mi mancava mio padre. Mi mancava che un giorno mi dicesse «Dai, vieni con me». Ma niente, era uno solitario lui. Allora cominciai a chiederglielo io. Da prima timidamente, poi sempre con maggiore insistenza, visto che non succedeva mai. Non mi interessava la caccia in sé. Volevo che il mio babbo mi insegnasse qualcosa. Immaginavo sempre che mi prendesse per mano e che in quell'unico mattino libero mi portasse con sé chissà dove, che mi volesse con sé. Vivevo tutti i giorni della settimana nell'attesa di quella domenica mattina, sperando che fosse quella buona. E così la sera del sabato, a tavola, lo pregavo: «Babbo, dai, domattina, quando vai via, chiamami per favore». E ricevevo in cambio sempre la solita risposta: va a letto e poi si vedrà. Io andavo a letto speranzoso, sognante, ma regolarmente il mattino dopo mi svegliavo con l'odore della pasta fatta in casa e del sugo che borbottava sul fuoco che mia madre preparava. Nessuna traccia di mio padre, che per l'ennesima volta era partito da solo di buon mattino e da lì a poco sarebbe tornato. Insomma, il solito film. Un giorno, dopo la mia solita richiesta del sabato sera, per l'ennesima volta mi risvegliai, constatando che mio padre se n'era andato senza chiamarmi. Quel giorno, a pranzo, urlai tutta la rabbia e la delusione che provavo in faccia a 2 genitori esterrefatti. Non credevano possibile albergasse tanta furia nel cuore di un bambino di 10 anni. Quando esaurì il mio impeto, esausto e piangente, rimasi a tavola in silenzio. Sentivo il rumore delle posate contro il piatto. Era l'unico segno di vita. Finito di mangiare, mia madre bisbigliò qualcosa all'orecchio del mio babbo. «Mettiti le scarpe che andiamo a caccia», disse lui di lì a poco. Erano circa 2 anni, 2 inverni, che vedevo partire mio papà per la caccia, per la girata nella macchia, e mi ero deciso a tutti i costi di andare a vedere dove andava e cosa faceva. Obbedì senza ribattere, non sapendo che ciò che sarebbe successo di lì a poco mi avrebbe fatto, se possibile, ancora più male. Prendemmo la Fiat 850 e ci dirigemmo là dove la città finiva. E appena intravista una qualche forma di vegetazione in mezzo ai campi annebbiati, ci fermammo e ci mettemmo in cammino in silenzio, senza nessun entusiasmo. Guardai mio padre che camminava accanto a me e in quel preciso istante mi resi conto di 2 condizioni totalmente fuori contesto per ciò che stavamo facendo. La prima è che stava camminando con il fucile in spalla, scarico e per giunta in custodia, che per i non avvezzi significa che in quel momento qualsiasi potenziale preda ci si fosse parata davanti non ci sarebbe mai stato il tempo di sparare. 2, da Che mondo è mondo, alle 3 del pomeriggio non si va a caccia. Continuai a camminare ad occhi bassi, nel profondo qualcosa in me stava morendo definitivamente. Rientrammo a mani vuote a casa. Da allora non chiesi più nulla. Mio padre, forse convinto che finalmente fossi appagato, ha continuato ad andare per boschi la domenica da solo. A tutt'oggi, tutte le volte che ci ripenso, anche se sono passati anni, quasi 40 da allora, rivivo quel dolore con la stessa intensità. Da quel giorno sono diventato improvvisamente adulto. Tutti noi portiamo sul corpo qualche segno, qualche cicatrice che non va più via. Ovviamente fanno parte di noi, sono la nostra storia. Le cicatrici sul corpo sono quelle che si vedono, poi ce ne sono delle altre che non si vedono e stanno sotto la pelle, sono invisibili, come un organo interno. Non l'abbiamo mai visto, ma sappiamo che c'è. Sono pezzi di passato che abbiamo dentro che influenzano ovviamente le nostre scelte. L'estate dopo l'esame di terza media, un sacco di anni fa, mi piaceva Margherita, che era una ragazza che aveva un anno più di me. Faceva l'animatrice al centro estivo all'oratorio di Romentino. E così anch'io mi ero messo a fare l'animatore. Nel nostro gruppo avevamo una dozzina di bambini da controllare, dai 6 ai 10 anni. E tutti i giorni dovevamo organizzare giochi e divertimenti. Quindi tutte le sere, tutti i tardi pomeriggi, quando i bambini tornavano a casa, noi grandi ci fermavamo ancora un po' e facevamo il programma per il giorno dopo. E dopo la caccia al tesoro, dopo il torneo di pallavolo, dopo la gara di cucina, una sera prendo la parola e propongo per l'indomani un programma un po' ambizioso. Biciclettata fino al Ticino, pranzo al sacco e partitone a palla prigioniera. I più grandi ci dicono ovviamente che è pericoloso, che poi tutti vogliono fare il bagno nel fiume, però la maggioranza vota a favore e la mia proposta passa. L'indomani la giornata è calda e afosa, è una di quelle giornate che ti verrebbe proprio voglia di fare un bel tuffo nel Ticino. Arriviamo al fiume che siamo sudati e impolverati. Siamo tutti troppo sudati per pensare di stare tutto il giorno di fianco al fiume senza bagnarci nemmeno un po'. E a dire la verità non ho nessuna voglia di giocare a palla prigioniera. I bambini intanto cominciano a tirarsi l'acqua, i più grandi si mettono a torso nudo e io anche. Entro nell'acqua fino al ginocchio. Beh, se lo fa Matteo lo possiamo fare anche noi, ovviamente pensano tutti quanti i bambini. E come se fossero una squadra di nuoto sincronizzato mi raggiungono in acqua. Margherita mi guarda preoccupata, ma ormai è troppo tardi. Di tirarli fuori da lì ora non se ne parla, io non sarei comunque capace. E in più voglio fare vedere a Margherita che io disubbidisco agli ordini dell'oratorio. Come se questo portasse qualche punto a mio favore nei suoi confronti. Anzi, rilancio. Li porto tutti sotto il ponte della ferrovia, dove si possono fare i tuffi, e gli faccio passare un pomeriggio indimenticabile. Però voglio dimostrare a Margherita che so anche essere un po' responsabile, se voglio, e allora prendo uno a caso, prendo Matteo Cocci, quello che mi sembra il bambino più piccolo, e gli dico: Matteo, tu no, tu sei piccolo, i tuffi non li puoi fare. Lui ovviamente insiste, e ha ragione perché li fanno tutti, ma io sento lo sguardo di Margherita puntato addosso e non cedo. Matteo Cocci si rassegna e con gli occhi bagnati si siede da una parte e ci guarda. Io gli dico di aspettarci lì e corro a fare un tuffo. Da allora sono passati tantissimi anni. Un giorno dell'inverno scorso non mi funziona la Vespa e quindi devo andare in un posto e prendo il tram. Salgo, timbro il biglietto e mi siedo a leggere. Mi sono appena comprato la biografia di Sugar Ray Leonard, uno dei più grandi pugili della storia. Non faccio in tempo ad aprire la prima pagina quando sento Matteo Caccia. Ed è lui, è Matteo Cocci, anche se adesso è un uomo ovviamente, ha i capelli lunghi e gli avambracci tatuati, però lo riconosco subito. È bello incontrare per caso qualcuno che conosci, qualcuno con cui hai un pezzo di passato in comune. Per questo sono io a entrare nell'argomento e gli ricordo del centro estivo e di quel giorno al Ticino, e anche lui se lo ricorda bene. Quel giorno ci hai portato al fiume, mi dice, c'era una bambina che mi piaceva, volevo farmi vedere da lei mentre facevo i tuffi, ma tu non mi hai lasciato. Vi tuffavate tutti, vi divertivate e io vi guardavo da solo. Sai che da quel giorno non ho più fatto un tuffo. Io non sono ancora arrivato, ma per fortuna il tram si ferma. Lo saluto e scendo. Poi guardo il tram che si allontana. Ho il libro in mano. Per distrarmi lo apro a caso e leggo. Nel pugilato devi sempre misurare le conseguenze di quello che fai. Se no, puoi restare senza fiato, dice Leonard. Qualche volta è meglio prenderle per un round, qualche volta le prendi e qualche volta le dai. E non è detto che darle faccia meno male. L'altro giorno ho detto a mia zia che non ho intenzione di fare ingegneria come lei avrebbe voluto. Ma d'altra parte le zie vogliono sempre che tu faccia ingegneria. O ingegneria o medico. No, l'ingegnere trova sempre lavoro. E invece mi iscrivo a lingue. Sapevo che non l'avrebbe presa bene, ma che quelle parole avrebbero scatenato l'inferno, ingenuamente forse non l'avevo previsto. Adesso non so dove sbattere la testa. Però scusami, qui è la conseguenza di una scelta, non di una cosa che hai detto. Cioè che tu vuoi fare una roba che preferisci fare, no? Perché se fai lingue evidentemente non eri proprio portatissimo o portatissima per fare ingegneria. Quindi è più che hai deciso di fare una roba che ti, non lo so, che ti sta più vicino, che ti piace di più. E poi, oh, sai quante zie hanno rotto i maroni. D'altra parte anche un po' il loro mestiere, no? Cioè, che devono un po' prendersela, devono lamentarsi, devono preoccuparsi. Fa parte del mestiere degli zii, dei genitori, dei parenti. Si preoccupino e amen, si preoccuperanno. Come dice Bonini, bisogna uccidere i propri genitori. Cioè, no, aspetta, Bonini non lo dice Bonini innanzitutto. Poi è un modo di dire, bisogna affrancarsi dai propri genitori. Zia era allarmata, sta già chiamando sua madre dicendo, no mamma, è per dire, è un modo di dire. E poi devo leggere un messaggio, un po' c'ha ragione, un po' c'ha ragione. Matteo, e trovare qualche storia più allegra per il venerdì non sarebbe stato male. Guarda, ti dirò anche di più. Ogni tanto noi ci diciamo, il venerdì mettiamo una roba un po' più, un po' più aperitivo, Paolino è esagerato, però un po' più da fine settimana. Però questa storia, effettivamente non avevamo pensato che oggi è l'ultimo giorno d'estate, è uno degli ultimi venerdì di settembre, cioè potrebbe essere un giorno complicato. Anche per questo Luciano secondo me si è chiamato fuori e ha detto guarda, io non intervengo. Però facciamo così, che la promessa è che da qui ai prossimi venerdì fino a giugno è azzardato? No, così, dai, io lo prometto, tanto chi se la ricorda, no? Fammela fare la promessa, ci stiamo attenti, la promessa è che ci stiamo attenti da qui al prossimo venerdì, storie, diciamo, più leggere. Voi siete qui. È una bella fotografia estiva quella che ci propone Luciano, che trovate sul sito di Radio 24, la nostra pagina, Voi siete qui. È un, secondo me è un autoscatto perché fa finta di guardare altrove, ma ha la mano bella tesa davanti a lui. Gli occhiali da sole, i capelli cortissimi, il pizzo accennato e alle sue spalle il lungomare di Follonica e il Mar Tirreno. Continuai a camminare ad occhi bassi. Nel profondo qualcosa in me stava morendo definitivamente. Rientrammo a mani vuote a casa. Da allora non chiesi più nulla. Mio padre, forse convinto che finalmente fossi appagato, ha continuato ad andare per boschi la domenica mattina. Da solo. A tutt'oggi, tutte le volte che ci ripenso, anche se sono passati ormai quasi 40 anni da allora, rivivo quel dolore con la stessa intensità. Vi ricordo che per il momento il grande teatro di Voi siete qui, ringraziamo Alessandra De Luca e la sua interpretazione di quel pezzo. Basta uno stralcio, basta veramente uno stralcio per capire la differenza. Tra l'altro vi chiedo per piacere, basta chiedere di pubblicare sul profilo Facebook foto di Alessandra De Luca e Margherita Hina. Non lo facciamo perché innanzitutto è estremamente maschilista chiedere una foto, o semplicemente da pirla chiedere una foto, non vorrei tirare in ballo il maschilismo. E poi non lo facciamo, anche, guarda, un attimo fa è arrivata una mail che ci chiedeva una foto. La voce è voce, il nome è nome. che non so cosa voglia dire, però nel senso che senti la voce dell'Estranda De Luca, senti il nome di Margherita Hina e va bene così. Mi è venuto in mente che, a proposito di lungomare di Follonica, che si vede nella, si intravede nella foto di Luciano, c'era stata una polemica qualche tempo fa tra il sindaco di Follonica e i Baustelli. I Baustelli avevano fatto nel disco questo brano che si chiamava Follonica proprio, e che, diciamo, non raccontava Follonica in maniera smagliante. Aveva alcuni passaggi in cui descriveva soprattutto il lungomare e la spiaggia di Follonica. E il sindaco chiese a Bianconi e a tutta la band, ai Baustelle, il primo cittadino Eleonora Baldi, chiese una canzone di rettifica. Ma scusami, ma come una canzone di rettifica? Cioè, al massimo puoi dire una, puoi chiedere una spiegazione. Cioè, puoi dire, perché avete, perché secondo voi Follonica c'ha, adesso non ricordo più, era tipo la spiaggia, non so se facciamo, riusciamo a trovarla, però magari la mandiamo dopo. Aveva la spiaggia con dei rifiuti, qualcosa del genere, mi pare. Peraltro è la solita allegria dei Baustelle. Insomma, non si percepisce bene il motivo, a parte appunto la, il sound. L'Ische Caffè. Ok, abbiamo capito il perché. Grazie Bianconi, grazie Paolino Corleoni. Abbiamo la parola chiave è quella. Capiamo anche il sindaco di Follonica, che però non può chiedere una canzone di rettifica. Cioè, la canzone di rettifica è come dire abbiamo perso una partita, facciamo una partita di rettifica, vediamo se riusciamo a vincerla. 349-238-6666, come nel caso di Bianconi, le parole che hanno creato delle gravi conseguenze. La parola nel suo caso era quella che avete sentito un attimo fa in diretta, era Tampax, evidentemente è una marca di un, come si chiama, un assorbente, giusto, più o meno. Il messaggio fuori contesto che vince in assoluto oggi è quello di Giovanni, che dice: carissimo Matteo, mi puoi dire il risultato finale di Italia-Ucraina di basket? Te lo dico subito, come se fossi un Carlo Genta qualunque, il risultato finale è che l'Italia ha perso. L'Italia ha perso 58-66 e qui dice crolla nel finale, domani dovremo battere la Serbia per sperare nel mondiale. Andiamo, torniamo al tema di oggi, visto che siamo partiti da lì e poi ci siamo allargati. Scusami, altro messaggio fuori contesto, ma mica tanto, è quello di Elisa che dice: Matteo, i podcast sono scaricabili anche dalla app di Radio 24. Quindi evidentemente, visto che lo smartphone è sempre con voi, potete semplicemente scaricarvi l'app di Radio 24 e da lì scaricarvi i podcast. Dicevamo, l'argomento di oggi, delle parole che avete detto o che qualcuno vi ha detto che hanno creato delle conseguenze inaspettate per voi, per lui, eccetera eccetera. È arrivata questa mattina una mail di una ragazza giovane, di un'ascoltatrice giovane che si chiama Serena, che racconta esattamente questa sensazione. Caro Matteo, mi chiamo Serena, ho 21 anni e scrivo da Bolzano. L'argomento di oggi, riguardo alle parole e alle loro conseguenze, mi è particolarmente caro dal momento che ho vissuto in maniera diretta questa esperienza, ma dall'altra parte del cerchio. Io non ho detto nulla che abbia provocato gravi conseguenze, ma mi sono sentita dire qualcosa di importante che ha generato delle conseguenze in me. Per qualche anno, a partire dai 15, ho iniziato a mangiare poco, anzi, a dire la verità, a non mangiare per niente. Si chiama anoressia e non ha bisogno di essere spiegata. Sono arrivata a pesare così poco che mi sentivo trasparente e di cristallo. I miei genitori, dopo un periodo di mancanza di consapevolezza o di volontà di inconsapevolezza, hanno dovuto affrontare la situazione e mi hanno portata in un centro per persone che soffrivano di anoressia. Ci sono rimasta 6 mesi, ma non ha sortito gli effetti sperati. Avevo 17 anni, ero fragile, un po' stupida e magrissima. Sono tornata a casa e soprattutto sono tornata a scuola. Quando sono rientrata in classe tutti mi hanno accolto molto bene, ma facendo finta di nulla, come se fosse normale avere delle braccia larghe quanto una matita e la pelle livida. Un giorno, durante un intervallo nel cortile della scuola, ho incontrato un ragazzo che era stato il mio fidanzato per qualche mese prima che mi ammalassi. Non era stato un grande amore, quindi di lui mi ero quasi dimenticato, comunque non ci pensavo più. Lui però quel giorno mi venne incontro, mi salutò e scambiamo qualche parola sulla scuola, sui professori e sull'autogestione che si era conclusa da poco. Poi, poco prima di andarsene, lui mi disse: «Ma perché sei così magra? mica vorrai morire. Fece un sorriso come per chiudere una battuta uscita male e se ne andò. Io non lo so se quella voleva davvero essere una battuta che gli era uscita male, ma quella frase mi fece paura. Ne parlai con la psicologa che mi aveva in cura e da lì partimmo per un viaggio che aveva come fulcro proprio questo, la vita e la morte. Oggi ho 21 anni, sono magra ma non come allora, e anche se ogni tanto mi viene voglia di non mangiare qualcosa, sono praticamente guarita. E oggi, leggendo sul tuo profilo Facebook l'argomento della puntata, ho deciso di scrivere questa lettera, perché quelle parole, mica vorrai morire, hanno cambiato la mia vita. Ciao, Serena. Goes without saying. Bragging like an idiot when like we're friends to the end. And this is the end. Your eyes, they talk to me. Visto che vi aspetta uno splendido fine settimana davanti, mi auguro per voi che sia splendido, o quantomeno vi aspetto un fine settimana davanti a voi, perché è venerdì pomeriggio, quasi sera, avete due possibilità. La prima è mettervi lì e scrivere un racconto che racconti qualcosa di voi e spedircelo. Voi siete qui, @radio24.it. L'altra invece è che se proprio non ci avete voglia di scrivere, ma avete voglia di leggere, andate sul sito di Radio 24, alla nostra pagina, e ci scaricate e vi scaricate il primo o il secondo, o tutte e due se non li avete scaricati, ebook di questo programma. Voi siete qui, Radio 24, il primo è l'edizione 2011-2012, il secondo è il 2012 e 2013, cioè ma leggete anche altro, però se ci avete voglia di leggere questo. Quest'estate ho conosciuto uno scrittore che era talmente pieno di sé che a un certo punto, non vi farò mai il nome, che a un certo punto mi ha detto, lui vende tantissimi libri, proprio vende tanti tanti libri, mi ha detto: io ogni tanto incontro delle persone che mi dicono, guardi, io riesco a leggere solo lei, e io gli dico, no, sbaglia, devi leggere anche altre, ci sono tante belle cose in giro. Non solo mi ha detto questo, ma anche alla domanda, quando un libro diventa un classico, lui mi ha risposto citando un suo libro. Un grandissimo, non vi dirò mai il nome, ma un grandissimo, quantomeno simpatico. 349-238-6666, rispondo anche a Ugo che dice: basta questa storia che l'autunno porta tristezza, è la sessione, sarà la stagione più bella che c'è. Io vi auguro un buon inizio di autunno, ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa settimana e questa puntata di programma, che sono Tiziano Bonini, Margherita Ina e Paolino Corleoni. Ringrazio soprattutto Luciano, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Maurizio Governa, vivo a Milano. La storia di lunedì è la mia e parla di una doppia vittoria che ebbi molti anni fa, ma che è rimasta ancora nella mia mente. Questa è la mia storia e io sono qui.